Vorrei soldi per poterli dare anche alle mie genti, sfumarli dalla fame dei coltelli del reale, guarendoci di terra e sogni dal sale. Vorrei soldi per poter dargli anche le mie genti, sfamati dalla fame dei coltelli del reale, guarendo cini, terra e sogni dal sale. Rimangono troppe persone sole, solo per soldi. Rimangono troppe terre aride nel mondo a rimanere in fragili speranze, sole, solo per soldi. E il mondo dovrebbe iniziare ad amare chi è solo per soldi, sfamarli con il calore del cuore. Ma il mondo un po' lo fa, un po' no, solo perché le persone sole per soldi sono più facili da sfruttare, o no? Vorrei soldi per poterli dare anche alle mie genti, sfamarli dalla fame dei coltelli del reale, guarendo cini, terra e sogni dal sale. Vorrei soldi per poterli dare anche alle mie genti, sfamarli dalla fame dei coltelli del reale, guarendo cini, terra e sogni dal sale. Rimangono troppe persone solo, solo per soldi. Rimangono troppe terre aride nel mondo a rimanere in fragili speranze, sole, solo per soldi. E il mondo dovrebbe iniziare ad amare chi è solo per soldi, sfumare con il cuore del mondo. Ma il mondo un po' lo fa, un po' no, ma solo perché le persone sole per soldi sono più facili da sfruttare, o no, o no, o no. Un po' chi spiccia a capa si sfama il mondo, e non solo chi è capo. Il mondo è troppo tondo per girare solo in un modo. Guarire il mare dal sale è possibile dare speranza a occhi che conoscono solo buio e chi, ma solo hanno terre aride da non poter neanche coltivare. Sfideate a salvare la nostra Africa mondiale, la ragione è anche donare. Inizia, inizia, inizia ad innalzare il tuo sole, solo per purificare e guarire il mondo dal taglio di terra e di fame. Inizia, inizia, inizia a innalzare il tuo sole, solo per purificare e guarire il mondo dal taglio di terra e di fame. Vorrei soldi per poterli dare anche alle mie genti, sfamarli dalla fame dei coltelli del reale, guarendo cini, terra e sogni dal sale. Guarendo cini e terre e sogni da sale, la nostra Africa mondiale, la ragione è anche donare.